Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata a tutti, ritorniamo. Ieri ci siamo presi una pausa sui temi legati alla manovra correttiva sui conti pubblici appena varata dal governo, manovra che intensifica le verifiche sui flussi dei mezzi di pagamento che regolano le transazioni economiche. Insomma, tutta una serie di paroloni, magari un concetto un po' articolato, per esprimere qualcosa invece di più sintetico. D'ora in poi la parola d'ordine sarà tracciabilità dei pagamenti. Per la verità, sulla base della normativa antiriciclaggio in vigore da qualche anno, era già stata impressa una stretta sui pagamenti in contanti e sull'utilizzo di assegni. Poi c'è stata una marcia indietro ed erano stati ripristinati vecchi parametri, meno appunto restrittivi. Adesso c'è il nuovo intervento della manovra correttiva che recupera di nuovo limiti più stringenti, e allora ci è sembrato utile in questa confusione fare un punto della situazione, perché intanto nel nostro paese i pagamenti in contanti, c'è un larghissimo utilizzo di contante da parte delle famiglie. I pagamenti in contanti anche per importi discreti continuano ad essere molto frequenti, così come l'assegno largamente utilizzato, quindi bisogna spiegare bene come bisogna comportarsi d'ora in avanti, cosa rischia chi commette qualche infrazione, e magari daremo anche qualche esempio per capire quali sono proprio le ricadute delle operazioni secondo le nuove norme su pagamenti in contanti e anche sulle fatture telematiche. E abbiamo interpellato chi ne scrive in continuazione sulle Sole 24 Ore di questi argomenti. Ringrazio per essere con noi Benedetto Santacroce, esperto in materia fiscale, professore di diritto tributario comunitario presso l'Università Marconi di Roma. Santacroce, buongiorno, bentornato a Salva Danaio, da un po' che non la sentiamo. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. E quindi abbiamo ripristinato la sua consulenza su questi argomenti. Insomma, intramontabile assegno in Italia, potremmo dire. Sì, l'utilizzo degli assegni e l'utilizzo del contante è una malattia che è difficile da estirpare, e il legislatore, anche con questi andare e rivieni dei limiti, insomma, alla fine porta a consolidare pratiche che evidentemente forse sono poi portatrici anche di fattori di evasione. Infatti, esatto, perché il punto è quello, è combattere l'evasione fiscale, quindi cercare di evitare nella massima misura possibile i pagamenti in nero, e chiaramente con il contante. Questo è un discorso che è molto facile, però insomma faremo tutto un bel punto della situazione, speriamo, o spiegandovi le misure cardine di questa manovra, che sono tre. Poi ci entreremo nel dettaglio, fra un po' abbiamo la nostra scheda, avremo, spero, le vostre domande all'800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, oppure scrivetecele al 349 238 6666. La borsa oggi ci racconta di una buona giornata, finalmente un bel sospiro di sollievo per i listini del vecchio continente e per le mercati internazionali, perché la buona intonazione è cominciata ieri pomeriggio da Wall Street. Anche il mercato americano ha chiuso piuttosto bene. Sono arrivati dagli Stati Uniti alcuni dati economici sorprendentemente buoni. Il numero di compromessi su case esistenti è aumentato più del previsto, quindi si è rimesso in moto, sembra bene il settore immobiliare, ma soprattutto il comparto automobilistico americano ha chiuso il mese di maggio migliore del 2010 in termini di nuove immatricolazioni, e se ricordiamo quanto è in crisi ancora il settore auto a livello internazionale, ma in America soprattutto, le tre principali case automobilistiche sono letteralmente ancora piegate da questa crisi. È chiaro che queste indicazioni ieri hanno incoraggiato non poco gli acquisti sul mercato azionario, che si sono poi propagati stamattina in Asia. Il Nikkei a Tokyo ha chiuso con un rialzo del 3,24%, e stamattina effetti benefici si risentono anche in Europa. Parigi più 2,17, Francoforte più 1,60, Londra più 1,72, e da stamattina e continua ad essere Milano la regina d'Europa con un rialzo del 2,28%, adesso è arrivata anche a guadagnare anche 3 punti. I motivi sono sempre quegli stessi, che quando trascinano al ribasso il listino, poi nelle giornate contrarie la trainano al rialzo. Le banche, quando recuperano così copiosamente, ovviamente fanno brillare tutto il listino, anche se non sono proprio solo le banche. Stamattina i migliori titoli della giornata sono i titoli petroliferi, con il crollo di British Petroleum nei giorni scorsi. le vendite avevano contagiato tutti i titoli del settore in tutta Europa e quindi oggi recuperano anche questi. Saipem è il miglior titolo in questo momento a Milano, guadagna il 3,66%, poi sulla scia delle indicazioni auto che arrivano dagli Stati Uniti, ovviamente bene anche Fiat, più 3,57%, Tenaris più 3,51%, Exor, azionista di riferimento di Fiat, più 3,36%, Luxottica più 3,11%, più 3 punti anche per Ansaldo e in recupero anche Finmeccanica. Nessun titolo negativo, Terna più 0,49% è quello che guadagna meno, Telecom più 0,6%, Parmalat più 0,8%, Buzzi più 1 punto. Euro su dollaro a 1,2254, adesso invece andiamo a tutte le novità sui pagamenti e alla tracciabilità dei pagamenti, ecco le novità della manovra correttiva. Nuovo limite a 5.000 euro dagli attuali 12.500 per l'utilizzo di contanti e di assegni e nuove regole per i libretti postali al portatore. Queste le principali misure che la manovra varata dal governo ha messo in campo per rendere più tracciabili e trasparenti i movimenti finanziari che avvengono tra privati e soggetti economici senza l'intervento di intermediari finanziari. Per quanto riguarda i contanti, il tetto di 5.000 euro deve essere inteso come somma complessiva dell'operazione. Ad esempio, se bisogna effettuare un acquisto di 7.000 euro, il pagamento non può essere suddiviso in tre rate, ciascuna di un importo inferiore al nuovo limite. Sempre considerando la soglia di 5.000 euro, gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori al nuovo limite previsto dovranno essere emessi con l'indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali può essere richiesto senza la clausola di non trasferibilità al di sotto dei 5.000 euro. Da 5.000 euro in su, la tracciabilità dovrà essere garantita attraverso la moneta elettronica, per esempio con l'uso della carta di credito, debitamente autorizzata a onorare conti da 5.000 euro in su. Infine, in linea con il monitoraggio delle transazioni, è la fattura elettronica per importi da 3.000 euro in su. In questo modo, il fisco avrà sotto controllo non solo la situazione degli operatori economici, ma anche quella dei consumatori, che non potranno nascondere la capacità contributiva collegata, per esempio, all'acquisto di un divano o di un oggetto di design. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, ma potete anche scriverci i vostri quesiti sulla materia al 349-238-6666. Cigiacchi contesta un po', non dico l'impostazione del programma, quanto un po' tutto il concetto al centro di questa manovra. Santa Croce, c'è chi dice, insomma, è tutta una scusa per poter far lavorare di più le banche, per farci sottoscrivere più carte di credito. Vabbè, adesso noi vorremmo anche lasciare da parte, ma insomma, sul tema dell'evasione fiscale io direi potrei anche raccontare quello che mi è successo con il muratore al quale ho chiesto di rifarmi la soffitta. Non era un pagamento così elevato come quello oggetto della nostra discussione di questa mattina, ma insomma ci sono tante situazioni nelle quali si evade l'IVA e quindi ovviamente non ci si mette in regola con il fisco, e quindi intervenendo in questo, anzi per qualcuno addirittura forse il limite del 5.000 euro continua ad essere anche piuttosto basso. Santa Croce, lei come lo interpreta? Allora io... Che conosce bene la materia. Io sostanzialmente dico di fondo di questo: noi abbiamo una serie di evasioni che si realizzano col contante e il contante alimenta sicuramente l'evasione, quindi sono un fautore da molto tempo del fatto che l'utilizzo di mezzi alternativi, in particolar modo mezzi tracciabili, sono sicuramente uno strumento più comodo nella vita quotidiana e dall'altra parte un metodo che può consentire allo Stato di accertare anche le micro evasioni, perché qui parliamo sempre anche di grandi evasioni, ma poi alla fine, come diceva lei, ci abbiamo invece una serie di situazioni che nel rapporto con il fornitore al minuto, col consumatore finale, queste evasioni sono di un certo tipo. Quindi secondo me il limite dovrebbe essere ancora più basso, cioè nel senso dovremmo cercare veramente di spingere tutti verso un certo elemento, certamente senza essere tra virgolette anacronistici, no? Nel senso che evidentemente non possiamo pretendere che tutti poi vadano a pagare anche il giornale, voglio dire, anche se ci sono paesi che già lo fanno. Quindi, esatto, i micropagamenti per esempio con la carta elettronica, la contactless, adesso è uno strumento che si sta pian piano diffondendo anche in Italia, forse ci arriveremo anche, però in un paese come il nostro, tanto abituato all'assegno, all'uso del contante, è chiaro che questa rivoluzione deve avvenire purtroppo in maniera un po' più ragionata, un po' più controllata evidentemente. Sì, ecco, io però appunto eviterei un po' le polemiche sul fatto chi ci guadagna e chi ci perde sul piano delle operazioni. Io vedrei un po' la sostanza, no? Ecco, quindi sulla sostanza io ritengo che il controllo del contante, unito però sostanzialmente ad un controllo poi del fatturato e incrociato con una serie di informazioni, evidentemente è una strada vincente, una strada che in qualche modo può dare dei concreti risultati. Lei sul Sole 24 Ore di lunedì scorso, lo ricordo agli ascoltatori che magari ricordano questa pagina se l'hanno letta oppure non l'hanno vista, cerco di descriverla, ha individuato 8 possibili casi di transazioni commerciali che si possono verificare fra clienti e fornitori. Ha fatto diverse tipologie, ovviamente prendendo a spunto un po' le tipologie di rapporto commerciale con le quali ci possiamo interfacciare, quindi cliente italiano per esempio che deve effettuare un pagamento ad un fornitore italiano oppure ad un fornitore straniero, quindi europeo o extraeuropeo, e ha fatto diversi esempi anche a seconda ovviamente dell'ammontare del valore della transazione. Siccome ha fatto anche l'esempio del fornitore europeo, le faccio sentire subito, Santa Croce, la domanda di Massimo da Milano, poi andremo ovviamente a ricominciare con i casi più semplici, che quelli nei quali ci possiamo ritrovare insomma un po' tutti. Però Massimo da Milano ha un caso un po' particolare, allora lo accontentiamo subito. Massimo, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Senta, la mia domanda è semplice. Tra un paio di mesi dovrò recarmi all'estero per un problema di salute. Sì. E so che questo problema di salute si trasformerà in un pagamento di circa 10.000 euro. Uh-huh. Volevo sapere come posso regolare questa fattura rimanendo nei limiti della legge e potendoli poi eventualmente scaricare la relativa fattura. Certo, Massimo, una domanda molto interessante. Intanto le facciamo i nostri migliori auguri per questa situazione, e questa è la cosa più importante. Dopodiché deve regolare una transazione commerciale con un fornitore estero, deve andare direttamente sul posto, quindi non paga dall'Italia, e quindi qua bisognerebbe anche capire se le modalità sono le stesse. Oggi a Salva Danaio siamo ritornati sulla manovra correttiva sui conti pubblici e stiamo parlando di pagamenti tracciabili, di tutte le novità che attengono alla compilazione degli assegni, un tema che abbiamo toccato frequentemente negli ultimi anni, perché anche la normativa antiriciclaggio ha rivisto e corretto questo settore più volte. Oggi c'è una nuova normativa più stringente. Peraltro, Benedetto, Santa Croce, tutte le novità di cui stiamo parlando questa mattina entreranno in vigore a partire dal 1 luglio, se non sbaglio, o sono già operative? Sì. Beh, diciamo che ci sono l'operatività della norma è legata alla introduzione della stessa nel sistema, e quindi in effetti hanno stabilito che fosse dal 1 di luglio, quindi entrerà dal 1 di luglio, però evidentemente ci dobbiamo preparare, insomma, anche perché infatti non è che la norma non esista, insomma, nel senso che già esiste con dei limiti già attuali e con delle regole già attuali, quindi la modifica sicuramente interverrà così, però evidentemente già ha un impatto sul piano dell'organizzazione. Esatto, e poi un'altra cosa divertente che vorrò vedere a ridosso di questa scadenza e della data per l'entrata in vigore appunto della norma sarà tutto il pacchetto degli assegni post datati, e mi ricordo insomma anche quando organizzammo tutte le altre trasmissioni Santa Croce proprio per rifare il punto sui nuovi limiti dai quali poi si è ritornati indietro, e mi ricordo quanta confusione c'era proprio su questo punto. D'altronde lo strumento assegno a questo anche si presta, la possibilità di essere consegnato ad un fornitore di un servizio, poi magari essere post datato, e quindi questo rende ulteriormente più complicate le cose di cui stiamo parlando questa mattina. Andiamo subito al caso del nostro ascoltatore di Milano, che deve andare a fare una visita medica all'estero, probabilmente per questa visita medica spenderà una cifra di 10.000 euro, ci ha già detto. Come deve regolarsi con questo pagamento per essere in regola con il fisco italiano soprattutto? Allora, dei suggerimenti più che altro, perché il problema di fondo è che le soluzioni che puoi adottare sono le più varie, però sostanzialmente vediamo quelle più sicure e quelle più semplici, diciamo, da realizzare. Ma diciamo che la prima considerazione che mi viene, che può essere anche abbastanza banale, ma è rappresentata dal fatto che probabilmente il mezzo più comodo per pagare questa transazione è la carta di credito o comunque una carta di pagamento riconosciuta sull'estero, perché sostanzialmente è un'operazione che avviene tramite un intermediario bancario nazionale che trasferisce sì delle somme a fronte però di una operazione specifica che poi si va a realizzare attraverso verso una fattura o un documento che gli viene rilasciato dal fornitore estero, e quindi da questo punto di vista lui avrà da una parte il documento, che poi è fondamentale perché, come diceva lui, voleva recuperarlo e quindi metterlo come spesa medica e quindi andarlo a dedurre poi dalla sua dichiarazione. Quindi il documento sarà necessario, linkarlo con una carta di credito è sicuramente il mezzo più comodo. Certo, però ci possono essere esigenze diverse. Allora, mettiamo che lui volesse mettere un assegno, dottor Santa Croce, potrebbe aggirare il limite facendone due da 5.000 euro? Allora, qui si inseriscono altri problemi, nel senso che evidentemente nel momento in cui la somma è 10.000 euro, la norma dice che in questo caso dobbiamo, come avete ripetuto anche nella scheda, dobbiamo vedere il valore complessivo della fattura. Infatti. Quindi quando lui avrà la fattura da 10.000 euro e l'avrà pagata con due assegni da 5.000 euro, di fatto il suo assegno che avrà versato, che avrà utilizzato, sarà evidentemente un assegno che supererà, cioè la somma supererà i 10.000 euro, quindi lo potrà fare, ma lo potrà fare con un'operazione non trasferibile nei confronti di quel particolare soggetto. Però per gli assegni, ecco questo è il punto, per i contatti e per gli assegni questa normativa si sovrappone ad un'altra normativa, cioè il problema della esportazione tra virgolette di capitali. Quindi essendo mezzi di pagamento ed essendo sostanzialmente strumenti che poi lui va ad accendere, quindi va ad utilizzare ed emettere all'estero, alla fine lui si troverebbe nella difficoltà, specialmente se dovesse trasferire una somma di 10.000 euro in contanti. Non è che un soggetto non possa trasferirli, evidentemente va alla banca, ritira 10.000 euro e lì è possibile l'operazione. Questi 10.000 euro poi lui li utilizza per questa operazione all'estero, quindi c'è un ulteriore problema, che nel momento in cui c'è l'uscita del capitale, il capitale deve essere in questo caso dichiarato. Ottenendo sostanzialmente delle dichiarazioni doganali di esportazione di questa valuta. Poi successivamente gli comporterebbe anche come conseguenza l'inserimento di questo trasferimento fatto senza, non tramite un intermediario bancario, con l'RVW e qui tutte le questioni che abbiamo visto per quanto riguarda la dichiarazione. No, stavo pensando a questo Massimo che già deve andare fuori per curarsi, no? E deve portarsi dietro pure tutto questo carico di preoccupazioni per le modalità con cui deve effettuare questo pagamento, perché non è poi così semplice, Santa Croce, mi sembra. Certo, no. Allora io escluderei il contante, perché è una complicazione generata da tutti questi adempimenti che poi si vanno a generare. Consiglierei di andare tramite un intermediario, quindi con uno strumento di un intermediario. Possiamo utilizzare l'assegno? Ma teoricamente sì, ma secondo me anche qui è meglio ottenere semmai anche una carta di debito provvisoria limitata agli importi di 10.000 euro, così non si deve preoccupare di perderli, ma avere la certezza che poi gli venga accettata nell'altro paese, perché potrebbe esserci questo ulteriore elemento che nell'altro paese non venga accettata. Quindi fargli un anticipo con un bonifico e poi magari saldare con la carta, dividere in due il pagamento, non lo so, tutto per rendere assolutamente trasparente il cammino di questo denaro, assolutamente un percorso tracciabile, e Massimo sta tranquillo? Secondo me sarebbe perfetto, nel senso che il passaggio da un intermediario bancario per il pagamento di una fornitura, in questo caso di una prestazione di servizi, correttamente documentata tramite un intermediario nazionale, esclude da ogni problema. Certo. Quindi questa è la soluzione. L'importante che, che l'intermediario riesca a ricostruire bene il percorso di questo denaro. Andiamo al caso più semplice, poi vado anche da Angela. Io vorrei anche ricordare ai nostri ascoltatori, lo sapete bene che Salvadanaio ha una natura molto pratica, quindi noi generalmente cerchiamo di entrare il meno possibile nelle polemiche delle grandi questioni come quella dell'evasione, perché questo aspetto, l'aspetto della polemica e della discussione su questo argomento viene toccato da altre trasmissioni. Noi interessa capire che cosa cambia e come vi dovete correttamente comportare per evitare delle sanzioni se commettete delle infrazioni, per cui mi raccomando, quegli ascoltatori che stanno tentando di intervenire solamente per dire la loro sul tema dell'evasione, non è questo lo spazio, anche se vi ringrazio molto dell'importanza che ci date, perché vi piacerebbe esprimere da questo microfono insomma queste vostre prese di posizione, ma non è questa la sede. Santa Croce, andiamo al caso più semplice. Prendo la prima tipologia di transazione commerciale che lei ha esaminato sul Sole 24 Ore di lunedì. Cliente italiano, quindi sono io, fornitore italiano. Vado in un negozio, mi rifaccio l'arredamento di casa e spendo più di 6.000 euro. Escludiamo di poter pagare in contanti, ma ammettiamo che io ho questa somma perché l'ho messa sotto il materasso a casa e quindi voglio pagare il centro commerciale in contanti. Qui proprio è assolutamente impossibile fare un'operazione di questo tipo per un importo superiore a 5.000 euro? È vietato perché evidentemente il limite che è stato imposto è perché nelle transazioni si vuole porre in qualche modo un freno a proprio all'utilizzo del contante. È vietato e ha delle conseguenze, perché ha una sanzione minima pari a 3.000 euro con addirittura la confisca semmai degli importi. Quindi sostanzialmente, voglio dire, è un po' oltre a essere vietato è anche sanzionabile, pesantemente bastonato. Infatti, quindi... se però spendo 4.000 euro e voglio pagare in contanti lo posso fare? Se è sotto i 5.000 euro io sono ancora nella disponibilità di poter utilizzare, con quell'accenno che avevamo detto prima, che evidentemente il versamento in acconto di 4.000 e poi il versamento in chiusura di altri 2.000 mi farebbe sforare il limite dei 5.000 e quindi rientrerei nuovamente nella specifica problematica. Angela dalla provincia di Monza e Brianza. Angela, buongiorno. Buongiorno, ecco, io volevo intervenire sull'importo di quei 5.000 euro di tracciabilità del pagamento. Lei mi diceva adesso non è il momento, diciamo, di affrontare il problema dell'evasione fiscale. Allora No, ho detto che ecco, non è salvadanaio il contenitore di informazione di Radio 24, giusto per fare polemica su questo, perché insomma scandalosa lo sappiamo tutti quanti. Noi abbiamo un impatto con sui nostri temi diverso, cerchiamo di capire cosa cambia e come vi dovete comportare, tutto qua, Angela. Ecco, però cogliamo. Io penso che la tracciabilità dovrebbe essere ancora più bassa per evitare proprio tutti questi fenomeni. Non tutti, penso che, cioè non c'è nessuno che non ha più un conto corrente, per cui basta avere una carta di credito e pagare qualunque cosa con la carta di credito. Lo so, Angela, sa com'è? È che per lei è molto scontato, lo è anche per me, perché anch'io sono assolutamente d'accordo con lei, eppure ci sono molte persone che fanno una grandissima fatica proprio ad utilizzare. Guardi, io penso banalmente alla mia mamma, è che quando la porta supermercato deve tirar fuori il suo bancomat, lei non ha idea che mi va in angoscia proprio. Quindi ci sono, diciamo, delle, c'è tutto il tema dell'evasione fiscale e qui la lascerei da parte, ci sono proprio anche delle resistenze a volte caratteriali, comportamentali, personali, che impediscono di cominciare ad utilizzare la moneta elettronica di pagamento e di abbandonare l'assegno. È un limite nostro, un limite italiano del quale abbiamo parlato tantissime volte, per cui insomma tutte le persone con un'apertura mentale come la sua, io sono pronta a raccogliere e a sentire ancora altre testimonianze. Purtroppo nel nostro paese così non va, c'è tantissimo contante cash in circolazione e questa è la situazione in sostanza. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Andiamo ad un'altra tipologia di transazione un po' più complessa magari. Benedetto, Santa Croce, prendiamo, non lo so, per esempio la tipologia 4 che lei ha esaminato: cliente italiano, fornitore italiano, pagamento con assegno non trasferibile per 3.500 euro. Come si configura questo caso? Questo ovviamente è perfetto da un certo punto di vista, nel senso che essendo utilizzato un assegno non trasferibile, addirittura sul non trasferibile potremmo eccedere tranquillamente il termine, quindi in questo caso 3.500 euro sicuramente sono sotto la soglia e quindi non mi pongono problemi. Ecco, da questo punto di vista volevo osservare un punto che forse può essere sfuggito. Ricordiamoci che le banche, nel momento in cui vanno attualmente a rilasciare gli assegni, di solito li rilasciano con la clausola di non trasferibilità impressa sopra, quindi la maggior parte degli assegni su cui noi lavoriamo e su cui noi utilizziamo sono già non trasferibili. È importante però, quando li emettiamo, di inserire il nome del beneficiario, proprio perché garantisce maggiormente l'emittente sull'utilizzo di quel tipo di assegni. assegno. In effetti i famosi assegni trasferibili devono essere richiesti espressamente alla banca, oltre che si paga un euro e 50 a foglietto ad assegno per ottenerlo, però evidentemente quelli non avranno la clausola di non trasferibilità e quindi producono come conseguenza la libertà, e lì però il limite famoso dei 5.000 euro è tassativo. Eccoci qua allora, le novità sulla tracciabilità dei pagamenti, la compilazione degli assegni. Benedetto Santa Croce, quali transazioni che utilizzano assegni, per quali transazioni che utilizzano assegni la banca è tenuta alla segnalazione all'anagrafe tributaria? Soprattutto, che obiettivo ha la segnalazione all'anagrafe tributaria? Ecco, questo è un tema anche interessante, perché molto spesso non ci si pensa, no? Si va in banca, si cambiano gli assegni, si prende il contante e poi si utilizza questo contante. Ecco, teniamo presente che ogni volta che noi andiamo a cambiare un assegno, la banca ha una serie di obblighi. In particolar modo poi ci sono dei limiti legati a operazioni specifiche, no? Cioè, se uso verso un assegno per il pagamento di una bolletta telefonica fino a 1.500 euro non c'è nessun tipo di problema. In generale tutte le operazioni che vengono realizzate attraverso assegni nel momento in cui vengono rese bancabili, cioè sostanzialmente portate alla banca, la banca intanto le rileva elettronicamente e individua chiaramente il soggetto che l'ha emesso e il soggetto che lo ha ricevuto e che quindi lo ha cambiato, per esempio, e lo segnala all'anagrafe tributaria. Questo a prescindere in qualche modo dal valore. Evidentemente in questo caso l'anagrafe tributaria va ad inserire questo dato in un calderone, una banca dati che è l'anagrafe dei rapporti, e quindi il fisco potrà sempre andare ad esaminare questo elemento, questo dato. Ovviamente lo potrà esaminare solo se attiverà un controllo nei confronti ovviamente dei soggetti intervenuti nell'operazione. Infatti anche questo aspetto, che peraltro avevamo ampiamente esaminato all'epoca in cui era particolarmente caldo, Santa Croce se lo ricorda, e molti temevano appunto che a questo punto sarebbero partiti controlli a tappeto, e invece ricordiamo che in sostanza il fisco si interessa a tutto questo meccanismo quando decide che per un determinato individuo è il caso di partire con gli accertamenti, ma non è che, no, è un sistema che in automatico avvia degli accertamenti fiscali. Ecco, sicuramente non li invia automaticamente, ma ci vuole evidentemente un altro input che lo generi. Ecco, però un'altra cosa da considerare è che nel momento in cui io emetto un assegno fuori dai limiti, no? Immaginiamo di avere un assegno trasferibile e di emettere un assegno sopra ai 5.000 euro. Beh, attenzione che questo assegno, nel momento in cui la banca lo riceve, prima cosa non lo banca, cioè non lo va a gestire, nella maggior parte dei casi non permette nemmeno il transito del denaro, e secondariamente è obbligato a fare una segnalazione al Ministero dell'Interno e all'UIF per le sanzioni corrispondenti. Quindi nel momento in cui l'emittente per negligenza, per disattenzione, questo lo dico in particolar modo nel momento in cui opereranno queste norme o nel momento a cavallo, ecco, tenete presente che ci sono delle sanzioni che si applicano e che come ho detto prima fino a 3.000 euro come sanzione minima, e poi si aumenta a seconda del valore dell'operazione. Quindi questo è un punto, secondo me, abbastanza delicato. No, tra l'altro poi ci sono altri aspetti che in realtà vedo che l'argomento sta generando un po' di preoccupazione, perché a questo punto si teme di non poter fare più tanti pagamenti. Adesso le leggo quello che ci scrive un ascoltatore di Palermo, Santa Croce, perché insomma non è che non si possono fare più assegni di importo superiore a 5.000 euro, l'importante è che l'assegno abbia una determinata forma. Cioè, io voglio molto banalizzare il discorso per tranquillizzare: se non lo utilizziamo è meglio, se lo utilizziamo utilizziamolo correttamente, l'importante è che abbia la clausola di non trasferibilità. Io credo che questa sia la risposta più semplice da dare a questo ascoltatore di Palermo, Vincenzo, che ci scrive: sto vendendo alcuni terreni, penso che mi faranno un assegno di 50.000 euro davanti al notaio. A questo punto lui addirittura si chiede se sia legale. Io penso che un'operazione del tutto illegale, intanto davanti al notaio, sarebbe impossibile da poter fare, Santa Croce, ma ecco, per un pagamento di un tipo di transazione di questo genere. Ma io posso pure emettere assegni per 100, per milioni, non è questo il problema. Il problema è che devo avere la clausola di non trasferibilità e devo avere indicato il nome, l'individuazione, l'identificazione del beneficiario. Del beneficiario. Se faccio questo posso fare tutti i pagamenti che voglio, non ho problemi nell'utilizzo dell'assegno. Benissimo. Tre belle domande, rapidamente sentiamole tutte. Antonino D'Alecco, buongiorno. Buongiorno, un avvocato, buongiorno avvocato, avvocato Antonino. Esatto, il mio quesito era questo, legato alla mia professione, cioè in quanto prestatore di servizi io non sono sempre in grado di stabilire a priori quale sarà il monte complessivo della mia prestazione. L'esempio che facevo alla ragazza che mi ha risposto era questo, cioè se viene una persona da me con un problema sulla compravendita immobiliare, mi lascia un fondo spese in contanti di 500 euro, poi invece c'è bisogno di fare una causa e aumentano le spese difensive, la controparte si difende, eccetera, arrivo poi a un saldo superiore al monte di 5.000 euro. Sì. Ecco, a quel punto il saldo me lo farò dare con assegno, eccetera, ma ci sono dei problemi relativamente al fatto che il totale delle fatture emesse non corrisponde interamente a pagamenti tracciabili poiché un primo acconto era stato dato in contanti. Antonino, la ringrazio. A tutto questo Santa Croce si può avviare anche per assegni di importo superiore, di importo inferiore, dati in via preventiva ad Antonino, perché comunque poi ecco la sua consulenza si svolge in tanti momenti, per cui i pagamenti avvengono anche appunto frazionati come in questo caso, che mi sembra del tutto legittimo e sarà probabilmente anche molto diffuso. Se dall'inizio, anche per importi inferiori, l'assegno è non trasferibile con indicazione del nome della ragione sociale del beneficiario, si può ovviare al problema che poneva Antonino con questo atteggiamento? Sicuramente. Io ritengo il fondo spese, cioè ovviamente facendo anch'io la professione, voglio dire, il fondo spese nel momento in cui noi lo accendiamo per 500 euro, come diceva giustamente l'avvocato, noi evidentemente in questo caso potremmo anche ricevere 500 euro in cash. Certamente anche per i professionisti, però io ritengo che per determinate somme sia molto più sicuro ottenere un pagamento tracciato. Ecco, questo forse potremmo riallacciare anche quel secondo tema che per ora non abbiamo affrontato, ma che è importante, che la manovra introduce anche un ulteriore obbligo legato sostanzialmente alla fattura. Cioè l'avvocato poi sarà costretto comunque a mandare una comunicazione al fisco con una fattura telematica per andare ad individuare quel tipo di transazione, quel tipo di operazione. Visto che la fattura in questo caso è quello che poi determina il complessivo dell'operazione, evidentemente utilizzare uno strumento tracciabile è sicuramente importante. Certo, io non ho la possibilità di prevedere certe situazioni, ma come diceva giustamente l'ascoltatore, in questo caso noi abbiamo un'operazione iniziale dove avrò un incarico, e questo poi ci porterebbe molto lontano, ma insomma ho un incarico che ricevo dove evidentemente non è ancora previsto quanto è l'importo. Quando avrò l'importo definitivo evidentemente potrò avere il superamento, e allora evidentemente il saldo conviene farlo pagare con un mezzo tracciabile, in modo tale che la sommatoria comunque non vada a superare mai quel limite, ma la quota parte che abbiamo tracciato l'abbiamo tracciato in modo corretto. Questo per poi avere l'abbinamento tra il carico dell'entrata del denaro e dall'altra parte la comunicazione che facciamo al fisco. Paolo da Salerno, ce la fa rapidissimo, la ringrazio. Sì, rapidissimo. Volevo chiedere questo: qual era in buona sostanza il criterio per individuare il limite dell'unitarietà dell'operazione? E faccio un esempio semplice dell'acquisto di immobili al centro commerciale. Sì. Può capitare, o comunque può essere una cosa volontaria, che per frazionare il pagamento io vada per 3 sabati consecutivi al centro commerciale spendendo 2.000, 2.000 e 2.000, o per caso o per volontà. Vabbè, ma acquisterà generi diversi, Paolo, oppure... Diciamo generi diversi, ecco, sì, anche generi diversi. O beni di consumo diversi. O beni di consumo diversi. Santa Croce, devo andare subito a Santa Croce perché sto chiudendo, Paolo. Direi che la risposta è molto semplice: se noi abbiamo fatture diverse o quindi certificazioni diverse, evidentemente in quel caso non abbiamo una unitarietà dell'operazione. Infatti, perché se un sabato compro il divano, se il sabato successivo compro il televisore, quello di là ancora compro l'armadio, che problema c'è? Quindi, se invece lo faccio il medesimo giorno ci sarebbe il problema, però. No, il problema è se evidentemente le operazioni vengono fatturate con un unico mezzo di certificazione, evidentemente c'è un'unitarietà rappresentata se il centro commerciale emette una sola fattura o un solo scontrino, è un problema se il pagamento è invece effettuato frazionato. Questo è il punto, mi pare di capire. Io devo terminare qua. Benedetto Santa Croce, grazie molte per essere stato con noi. Tanti auguri per il privato, per la cosa che sta appena diventato di nuovo papà. Ci teniamo a Faghino, naturalmente, perché insomma dietro anche a questi professionisti preparatissimi e autorevoli ci sono anche degli uomini, anche se devono studiare dalla mattina alla sera queste materie che sono quanto di più complicato ci possa essere, ma poi sono invece materie che attengono la nostra vita pratica. Santa Croce, a presto. Grazie, un saluto a tutti. A presto e grazie anche agli ascoltatori che ci hanno seguito. Grazie a Paolo Corleoni in regia, Gaia Romani in assistenza in collaborazione in redazione, anzi si stavo dando della regista anche a lei. Noi ci risentiamo, sì, ci siamo anche domani. Buona giornata a tutti.